Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di mobilità elettrica questa sera, all'indomani della tre giorni Revolution Electric Drive Days, appena conclusa al centro Sara di Leinate nei pressi di Milano. Rispetto a solo pochi anni fa, quando iniziative analoghe registravano il pieno di piccoli produttori di veicoli elettrici, ma una sostanziale assenza dei grandi marchi automobilistici, il salto è evidente. Ma questi veicoli sono ancora costosi rispetto ai concorrenti e quindi ai veicoli tradizionali, che hanno anche più servizi a disposizione e maggiore autonomia. Risultato: solo lo 0,1% delle immatricolazioni in Italia riguarda veicoli elettrici. Ecco perché sarebbe il momento di introdurre, secondo insomma molti osservatori, purché cum grano salis, ecco come si dice in questi casi, delle forme di incentivazione. È quello che propongono i firmatari della carta di Arese, la carta degli impegni per la mobilità elettrica, firmata appunto nel corso della manifestazione. Sentiamo di cosa si parla più precisamente. Giancarlo Morandi, presidente del COBAT e anche chairman di questa tavola rotonda con la quale è stata presentata questa carta di Arese. Allora, due diciamo i filoni principali, le priorità: una riguarda l'infrastruttura, l'altra invece riguarda gli aspetti economici. Ci sono paesi che hanno dato incentivi e si vedono diciamo così i risultati. Voi la carta, insomma, che cosa propone da questo punto di vista? Ma noi crediamo che il governo e lo Stato italiano soprattutto, cioè noi cittadini, possiamo tranquillamente pensare di incentivare la produzione e l'uso delle auto elettriche senza fare grossi sacrifici in termini monetari. Ecco perché appunto gli incentivi sono sempre gioie e dolori, no? Gioie per chi li riceve, ma poi dolori per chi li paga. Qui non parliamo di investimenti giganteschi, vero? Facciamo capire l'entità. Certo, perché l'importante è avviare un ciclo virtuoso in modo che le case produttrici possano avere delle economie di scala nelle produzioni delle loro autovetture, per cui non è necessario pensare a milioni di automobili ogni anno in più, ma semplicemente a qualche decina di migliaia, per cui gli eventuali incentivi sono facilmente reperibili nelle pieghe del bilancio, diciamo, dello parliamo Stato. Di decine o al massimo 100-200 milioni di euro all'anno, esatto. Realisticamente, per capirsi, no? Qualche migliaio di euro a veicolo, per dare i numeri, come si dice. Esatto, se pensiamo che per le rinnovabili stiamo spendendo circa 7-8 miliardi di incentivi all'anno, che per diversi anni dovremo continuamente pagare con la bolletta elettrica, qui parliamo invece di 200-300 milioni all'anno al massimo, no? Per ogni anno che si danno questi incentivi, anche perché questi dovrebbero servire come momento scatenante del mercato e per cui dopo 3-4 anni potrebbero essere semplicemente abbandonati. Ecco. Con che modalità, però, un elenco rapidissimo si potrebbero dare? Ma noi pensiamo che ci potrebbe essere un abbattimento dell'IVA arrivando al 10%, che per cui non è neanche un costo per quanto che riguarda i consumatori, e poi si potrebbe usare una parte del conto termico per finanziare questo contributo all'acquisto, dove chiamiamo però anche le case produttrici a fare il loro dovere. A metterceli un po' anche, esatto. Anche loro. Per esempio, per le flotte, che sono un fatto molto importante nella possibilità di usare l'auto elettrica, lì potremmo usare un ammortamento accelerato o addirittura degli sgravi fiscali, come si fa oggi per chi fa recupero energetico. Oltre agli incentivi economici ce ne sono probabilmente anche altri che possono funzionare, soprattutto nelle città, che sono anche poi il luogo elettivo per queste flotte di cui stavamo parlando. Sì, noi abbiamo sempre detto che i sindaci e le amministrazioni comunali devono avere più coraggio. Basta dare la possibilità alle auto elettriche di usufruire delle attrezzature che ci sono in città, soste, passaggi parcheggi riservati, le corsie preferenziali, pensate che soddisfazione, la ZTL e quant'altro, no? Ecco, per avere un incremento significativo. Così ha fatto la Norvegia, che è arrivato ad avere il 20% di auto immatricolate ogni anno elettriche, semplicemente con gli incentivi formali, chiamiamoli così, di utilizzo dell'auto. Grazie Giancarlo Morandi. Grazie a voi. Torniamo in studio per salutarci e darci appuntamento a domani per una nuova puntata dedicata all'auto elettrica. A che punto è? Ci chiederemo la tecnologia delle batterie e che tipo di impatto possiamo aspettarci sulla rete elettrica se un domani dovesse ospitare centinaia di migliaia o addirittura milioni di veicoli. Per intanto buona serata a voi tutti, scriveteci, segnalateci casi di innovazione tecnologica a smartcity@radio24.it. Potete seguirci anche su Facebook, ci trovate sotto Smart Melis. A domani. We'll be right back.